Anni 10. Suoni, parole e figure di Stefano Pistolini. Il Banana Fish, protagonista secondo noi del più bel racconto della letteratura americana contemporanea, il pesce banana, insomma. Il pesce banana dunque si è definitivamente inabissato. J.D. Salinger è morto e si può pensare che in effetti fosse scomparso dalla circolazione già da un numero infinito di anni, e invece c'era, il che dava alle sue memorabili storie, a tutto ciò che ciascuno di noi ci costruiva attorno, un senso di contemporaneità. Adesso invece si tratta di storicizzare, e qui a Anni 10 noi ci occupiamo di cose nuove, ma però almeno un saluto, no, all'uomo da cui tante cose nuove sono cominciate era dovuto. Ho una richiesta. Devo vedere una persona. Sherlock Holmes. Signor Holmes, deve aprire gli occhi. Lei sottovaluta la gravità di quello che sta per accadere. Sherlock Holmes, a darvi il benvenuto alla seconda puntata. Benvenuti alla seconda puntata di Anni 10, il settimanale che si occupa di indagare per vostro conto le novità che spuntano nel mondo delle cose che si vedono, delle cose che si sentono, delle cose che si leggono. Magari novità un po' più rare, no, del mainstream, di quello che viene promosso e raccontato dai grandi media, che bene o male ve ne accorgete anche se non volete magari. Qui invece andiamo in cerca di prodotti un po' più particolari, magari che fanno capo a uno o a più dei vostri interessi, ma che richiedono appunto tempo, attenzione, consultazione di vari luoghi di informazione. Lo facciamo noi per voi. Poi il gioco è quello di metterle in circolo, e come stiamo vedendo tra l'altro anche dalle reazioni che riceviamo al programma, sottoporre alla vostra attenzione, e alcune cose vi potranno piacere e potrete a quel punto seguire il filo rosso che è ad esse collegato. Oggi abbiamo aperto con Sherlock Holmes non per parlare del film, che tra l'altro in Italia è stato un successo, è uscito a Natale, ha incassato 18 milioni di euro sul nostro mercato, che è una cifra assolutamente ragguardevole, ma di qualcosa che c'è dietro, che c'è alla base, anzi che c'è dentro, che è nei fotogrammi di Sherlock Holmes, che è questo nuovo, no, frenetica interpretazione cinematografica del grande personaggio di Conan Doyle. Il film è firmato da Guy Ritchie, che oltre a essere l'ex marito, ormai ex marito di Madonna, è anche probabilmente il talento cinematografico, della regia cinematografica più brillante uscito dal cinema inglese negli ultimi anni. E c'è uno Sherlock Holmes travolgente, interpretato da Downey Jr., c'è Jude Law che fa Watson, ci sono questi personaggi letti in chiave molto, molto contemporanea, no? un po' nevrotici, un po' anticipatori anche del costume del XX secolo, forse addirittura del XXI secolo. C'è un avversario che ricorda chiaramente la figura dell'occultista Aleister Crowley, ma c'è soprattutto una estetica che è cosparsa nel film, e di questo vogliamo parlare, no? Una estetica che ha anche un nome preciso ed è diventata a tutti gli effetti quella che oggi si chiama una sottocultura, e quando spuntano sottoculture a noi piace, anche perché è sempre più raro che ne nascano di nuove. Tutto ciò si chiama steampunk, una parola che ne aggruppa due, no? il punk e lo steam, è il vapore, e del punk c'è qui tutta l'irrequietezza, il nervosismo, anche la voglia di trasgredire, ma però tutto ciò messo in relazione con un mondo del vapore, no? Che se c'è una forma, come dire, di combustibile che è superato, sembrerebbe essere proprio quello, perché si parla infatti dell'Ottocento, si parla del mondo vittoriano, si parla del gusto di risalire a un'epoca, quella vittoriana appunto, dove c'erano questi, dappertutto c'erano questi legni pregiati, c'erano questi mogani, no? Questi legni africani africani, c'era tutto ciò che arrivava dalle colonie, c'erano degli, questi ottoni bellissimi, c'erano degli astrusi meccanismi che un po' alla volta dei personaggi inventavano, e c'era soprattutto una gran voglia di usare tutti questi materiali bellissimi per innovare, per inventare, perché soprattutto l'Inghilterra, che era il cuore di questo spirito, di questa estetica vittoriana, no? Tra questi cuoi, per esempio, cuoi meravigliosi, scuri e grassi, si sentiva piuttosto sicura di se stessa, e quindi c'era voglia di mettere in circolo qualcosa di nuovo. La musica del Castello Errante di Howl, che è un film, voi direte, che c'entra con Sherlock Holmes? C'entra perché condividono questi film e molti altri film, dopo vi daremo qualche altro titolo, il riferimento a questa rappresentazione estetica che ormai appunto viene codificata e va sotto il nome di steampunk. C'è un aneddoto divertente da raccontare a questo riguardo, e risale al 1822, quando un matematico inglese, naturalmente, che si chiamava Charles Babbage, ebbe un'idea, quella di cominciare a mettere insieme tutta una serie di meccanismi, no, che avevano a che fare più con l'orologeria, con i meccanismi di precisione, con quella eccellenza artigianale che era tipica di quegli anni, no, di quella vecchia potente Inghilterra che voleva progredire, no, voleva continuare a governare il mondo, ma in modo sempre anche più esoterico, grazie anche all'utilizzo di queste macchine. Bene, questo Babbage montò tutta una serie di queste macchine e poi delle gran leve che venivano spinte da dei signori, leve naturalmente, poi attivavano dei meccanismi a vapore, sapete per fare che cosa? Per inventare una macchina di calcolo, che altro non era che un proto computer, che lui chiamava il motore matematico. Poi a un certo punto Babbage finì i soldi, finì l'ottone, finì i suoi legni pregiati e abbandonò la sua rincorsa, no? Così anticipata alla creazione di una macchina di calcolo. Ma pensate un po' se ci fosse arrivato lui prima ancora, no? Che l'elettricità fosse una realtà presente. Tutta questa storia risale agli anni 20 dell'Ottocento, quindi tempi lontani, tempi profondi, no? Pensate se i primi computer fossero nati fatti di mogano e fatti di cuoio. Ecco, tutta questa rappresentazione, tutto questo luogo comune adesso si chiama appunto steampunk ed ha tante fonti di informazione, di circolazione. Ci sono dei blog, ci sono delle riviste, c'è una bella mostra di estetica steampunk che vi segnaliamo a Oxford. Se capitate in Inghilterra e andate in gita ad Oxford, andatelo a vedere. Ci sono i romanzi di Gibson e Stirling, che, imparentandolo un po' col cyberpunk, no, hanno cominciato a parlare di steampunk in anni più lontani. E come vi dicevo, ci sono tantissimi film. Signore e signori, il dottor Parnassus. Che stai facendo? Cerco di salvare la vita di vostra figlia, signore. Vuoi salvarla, Allora alziamo la posta in gioco, che ne dici? Questo è uno dei film in questione, si chiama Parnassus di Terry Gilliam, e vedrete queste macchine strane, questi strani personaggi, mezzi inventori, mezzi dandy, no? Mezzi scienziati, mezzi esoterici, magari complottisti, e ce ne sono tanti altri di questi film, un po' pazzi, molto belli da vedere, perché il bello dello steampunk è che si vede bene, a questi colori, questi riflessi meravigliosi. Vi ricordo Wild Wild West, no? con Will Smith, l'ultimo remake di Metropolis, quello del 2001, c'è la Lega degli Extraordinary Gentlemen con tante superstar, c'è Van Helsing ancora, macchine meravigliose e scienziati pazzi. Poi è arrivato questo Sherlock Holmes, si presentano e tanti altri film, titoli di questo genere all'orizzonte. Ci sono, pensate, addirittura 27 app per il vostro iPhone che funzionano in stile steampunk, lo trasformano in una macchina a vapore. Ah, e per concludere, c'è anche una band di steampunk, viene da Seattle, si chiama Abney Park, naturalmente come un cimitero di Londra. food's new, but the skies are bright. We're prop spinning all through the night. We're low on cash, we're seeing another target. Goggles down and the cannon's up. My blood starts pumping as I drain my cup. But give the wheel a spin and I turn the school around. We're way above ground, but we're cruising on a target. Anni 10. Parole. It doesn't hurt, Ollie, really it doesn't. It's like falling off a cliff in slow motion, you know? Only after a while you wish you'd hit the ground already, you know? Yes. Bullshit, you never fell off a cliff in your whole life. Beh, se siete giovani non lo sapete, se siete più grandi cominciate secondo me a nutrire dei sospetti a questo punto del film. Eravate tutti attaccati alla sedia o avvinti ai vostri fazzoletti, volenti o nolenti, soprattutto se eravate andati al cinema clandestinamente, perché non è che si andava a vedere Love Story dicendolo in giro. La questione era molto complessa, correva il 1970, insomma, era un'Italia, un'America diversa, dell'impegno, della politica, delle questioni sociali, Love Story con tutto ciò, insomma, c'entrava assai poco, però era un meccanismo completamente perfetto e questo a distanza di 40 anni va riconosciuto, no? Le musiche di Francis Lai, la storia d'amore tra il ricco studente di Harvard, Oliver, no? E lei, la ragazza mezza italiana, Jennifer Cavalieri si chiamava il personaggio, era rispettivamente Eddie McGraw e Ryan O'Neill, e quella storia d'amore con quel finale, così triste, no? la malattia, la morte, lo struggimento si vede già nei primi fotogrammi. Perché parliamo, perché rievochiamo tutto ciò? Perché è morto Eric Segal, l'autore del libro e anche della sceneggiatura di Love Story. La notizia è passata molto sotto silenzio perché il personaggio in questione da molti anni, insomma, era un po' scomparso dalle grandi cronache popolari, che pure aveva letteralmente riempito quella copertina, io credo che quella copertina di Love Story, no? con quel lettering così magari datato, riferibile proprio agli anni 70, ce l'abbiamo presente tutti, l'abbiamo vista in tutte le case, in tutte le biblioteche, su tutti i tavolini, nelle librerie di credo la maggior parte delle case d'Occidente. E era stata una storia straordinaria quella del romanzo, e anche quello dello scrittore, che poi era un ex ragazzo ebreo di Brooklyn, figlio di un rabbino che dal padre aveva avuto l'opportunità di fare ottimi studi e per l'appunto aveva studiato a Harvard, dove poi avrebbe ambientato il suo romanzo, e poi sarebbe diventato un professore nelle migliori università della Ivy League della costa est americana. Ha insegnato a Yale, ha insegnato a Princeton, ha insegnato in Inghilterra a Oxford, e poi un po' per passatempo, un po' anche per calcolo, un po' anche per vocazione, perché aveva dei pregressi interessanti. Pensate che Eric Segal è l'autore praticamente della sceneggiatura, uno degli autori della sceneggiatura di Yellow Submarine, il film a cartoni animati dei Beatles, su un capolavoro assoluto della fantasia, no? Liberata da qualsiasi guinzaglio. E poi aveva scritto invece questa storia apparentemente così banale, che gli era stata respinta in forma di sceneggiatura dalle case di produzione, dicevano no, è troppo sdolcinata, così non va. Alla fine la Paramount, che consiglia a Segal di pubblicare prima il romanzo, se il romanzo funziona poi ci facciamo il film, e in realtà insomma hanno funzionato discretamente tutte e due. Che dite, decine di milioni di copie vendute del libro o il film consumato, straconsumato, pianto e strapianto, e tutta quella, no, tutte quelle storie che circondano la vicenda, per tutta la circolazione di quegli slogan famosi, no? Cosa si può dire di una ragazza di 25 anni che muore? È la domanda, l'interrogativo un po' un tantino angosciante con cui si apre il film. E poi naturalmente lo slogan degli slogan, no? Amore significa non dover mai dire mi dispiace, che venne poi tradotto, preso in giro in tutti i modi possibili, no? Amore significa non dover dire ho dimenticato a casa il portafoglio. Insomma, ciascuno si inventava le cose più strane. È stato veramente un movimento, è stato di nuovo, no, come lo steampunk, una sottocultura a sé stante, Love Story. Pensate, tanto per aggiungere qualche particolare, la biografia che poi diventa povera di Segal, che si rimette a fare il professore, pubblica altri libri che sono essenzialmente, a parte una continuazione di Love Story, la Oliver Story, la storia di lui, un po' meno fortunata del primo, pubblica più che altro dei saggi, degli studi veri e propri legati all'ambiente accademico. Un paio di aneddoti comunque li voglio dire. Pare che la figura di Oliver sia stata basata, per sua stessa rivendicazione, su quella del giovane professore Al Gore, quando ancora era alla università e faceva un po' lo studente, un po' il ricercatore. Lui ha detto: guardate, sono io Oliver. Poi è saltato fuori Eric Segal, che ha detto: no, non sei proprio tu Oliver, la tua famiglia è quella di Oliver, ha detto ad Al Gore, che è un ricco figlio, un ricco rampollo di famiglia. In realtà però l'Oliver vero ha una sua controparte nel film, e altri non sarebbe che Tommy Lee Jones, anche lui studente di Harvard, anche lui amico di Al Gore, anche lui amico di Segal, e anche lui grande rubacuore. Insomma, come dire, è stato un triangolo fortunato quello che ha messo insieme questi tre personaggi. È morto Eric Segal a 72 anni, se ne va sicuramente un altro spicchio di questo XX secolo che si sta definitivamente spegnendo. I think that's why there was such great interest in our recent election, because it talked about overcoming old wounds and. Non è che c'entra l'uno con l'altro, ma ci piaceva come stava la voce di questa signora per tanti anni così chiacchierata in America e nel mondo, ovvero Condoleezza Rice, segretario di Stato, e sotto quel sottofondo perfetto, no, pianistico di Love Story, anche perché ricordate che Condoleezza come seconda vocazione, forse addirittura come prima vocazione di questi tempi, è una eccellente pianista di grandissima educazione e di grandissima classe musicale. Perché vi parlo di Condoleezza in area parole, no, del nostro anni 10? Perché sta uscendo la autobiografia di Condoleezza Rice, ma attenzione, se siete appassionati di politica americana, aspettate che esca il secondo già annunciato volume tra qualche anno della sua autobiografia, perché Condoleezza ha deciso di fare il lavoro in due parti e questa prima parte sarà interamente dedicata ai suoi anni giovanili, anni comunque di grande interesse vissuti nel sud degli Stati Uniti, a Birmingham in Alabama, con sullo sfondo le grandi lotte per le grandi cause civili, a partire naturalmente da quella razziale. La Rice rievoca questa giovinezza, adolescenza, questi tempi così importanti per lei, e dice: dopo che ho lasciato Washington mi è sembrato importante scrivere della mia famiglia prima di scrivere dei grandi, dei potenti che ho frequentato, raccontare da dove vengo, perché questa prima parte della storia è indispensabile per capire la seconda. We have a great opportunity during this time of war to lead the world toward the values that will bring lasting peace. All fathers and mothers in all societies want their children to be educated. Qui l'associazione, no, è un po' matematica, un po' banale, no? Abbiamo sentito Condi Rice, e questo era il suo datore di lavoro, anche il personaggio George W. Bush, con cui la Rice ha saputo stabilire con un tocco, una raffinatezza straordinaria, un rapporto di lavoro, una collaborazione, una cooperazione agli scopi dell'amministrazione di Bush, che restano sicuramente importanti, veramente un piccolo capolavoro dal punto di vista anche della diplomazia femminile, anche dell'approccio femminile al potere. Abbiamo sentito Bush perché di due libri sul potere americano voglio rapidamente parlarvi. Sono due riflessioni sul potere, sul senso del comando, sulla terribile responsabilità, ad esempio, di trascinare una nazione in un conflitto. L'idea della guerra è ben al centro di entrambi questi volumi, scritti da due insigni studiosi americani, entrambi di area conservatrice. Il primo si chiama The History of Executive Power from George Washington to George W. Bush ed è firmato da John Yeo, esce da Kaplan, e il secondo si chiama The Modern Presidency and the National Security State ed è firmato da Gary Willis. Sono due libri che percorrono, uno in senso più storico, il libro di Yeo, che si scrive Y-O-O, tanto per darvi il cognome se volete fare una ricerca su internet, è un libro che ripercorre la storia del potere in senso storico, cioè risale su fino a, appunto, a Washington, a Jefferson, a Lincoln, a Eisenhower, a Nixon, tutti uomini che hanno preso, soprattutto sulla questione principale del potere esecutivo di un presidente americano, quello di dichiarare guerra, quindi quello di condannare a morte automaticamente migliaia, centinaia di migliaia, in certi casi addirittura milioni di esseri umani in giro per il pianeta. L'altro, quello di Willis, invece è un ragionamento più sul presente, sulla sicurezza oggi, su quali possono essere i compiti e le responsabilità di un presidente oggi. C'è una differenza principale tra i due libri, il ragionamento su come questa responsabilità aumenti di peso, di valore con il passare del tempo, se questo sia un bene o un male. Insomma, un presidente comanda sempre più, è una cosa giusta o una cosa pericolosa, che possa approvare il waterboarding è un bene o è un male. Ragionano in modo differente i due studiosi sul tema in questione, anche per questo è interessante metterli a fronte uno con l'altro. Vi ricordo i titoli: The History of Executive Power from George Washington to George W. Bush è il libro di John Yeo, invece da Penguin esce il libro di Gary Willis che si chiama The Modern Presidency, la presidenza moderna, and the National Security State. Quando uscirò da qui, ci sposeremo nella fazenda della mia felice infanzia, laggiù ai piedi delle montagne. Indosserà il vestito e il velo di mia madre. E non dico così, tanto per fare il sentimentale. Non è per via della morfina. Avrai a tua disposizione i merletti, la cristalleria, l'argenteria, i gioielli e il nome della mia famiglia. Darai ordini alla servitù. Monterai il cavallo di colei che fu mia moglie. E se alla fazenda non ci sarà ancora la luce elettrica, mi procurerò un generatore in modo che tu possa vedere la televisione. Avrai anche l'aria condizionata in ogni locale della tenuta, perché oggigiorno su quelle chine fa molto caldo. Ignoro se sia sempre stato così, se i miei antenati sudassero coperti di vestiti com'erano. Mia moglie, lei sì, sudava parecchio, ma apparteneva a una nuova generazione e non aveva l'austerità di mia madre. A mia moglie piaceva il sole, tornava sempre accaldata dai pomeriggi all'arenile di Copacabana. E questo è un breve estratto, anzi è l'attacco del libro, l'ultimo libro che vi vogliamo presentare oggi, si chiama Latte versato, è un libro firmato da Chico Barche lo conoscono tutti in Italia, anche perché è stato esule per un paio d'anni nel nostro paese, vi ricordate le collaborazioni mitiche con Ornella Vanoni, insomma uno dei padri ormai della bossa nova, è un uomo anziano, ha 66 anni, inteso come musicista naturalmente, ma è anche soprattutto in questo momento uno scrittore creativo, racconta il Brasile, il suo Brasile, quello più turbolento ma anche più vivo degli anni 70, 60, 70, 80 in modo appassionato, e lo fa anche in questo romanzo, una storia di un centenario che dal suo letto di morte praticamente racconta la storia della sua vita, la storia di una grande famiglia brasiliana e in sostanza una storia sociale del Brasile, sempre con il lessico elegante, ricercato, che è tipico dei romanzi di Chico Barche e anche di quell'approccio così che riesce sempre a tenere in equilibrio, no? Impegno e disimpegno, divertimento, suono, ritmo, danza e ragionamento politico, che è tipico dei membri del tropicalismo, un movimento di artisti degli anni 70 che contestavano seriamente, duramente il potere brasiliano dittatoriale di quegli anni, a cui secondo me conviene sempre tornare. Quindi segnatevi, da Feltrinelli esce questo Latte versato di Chico Barche, ma anche una piccola gita a riscoprire il tropicalismo. Non è mai tempo perduto. Essa moça tá diferente, já não me conhece mais. Está pra lá de pra frente, está me passando pra trás. Essa moça tá decidida a se super modernizar. Ela só samba escondida, que é pra ninguém reparar. Eu cultivo rosas e rimas, achando que é muito bom. Ela me olha de cima e vai desinventar o som. Passo de um concerto de flauta e não me desperta emoção. Ela quer ver o astronauta descer na televisão. Mas o tempo vai, mas o tempo vem, ela me desfaz. Mas o que é que tem? Ela só me guarda despeito, ela só me guarda desdém. Mas o tempo vai, mas o tempo vem, ela me desfaz. Mas o que é que tem? Se do lado esquerdo do peito, no fundo ela ainda me quer bem. Essa moça tá diferente, já não me conhece mais. Está pra lá de pra frente, está me passando pra trás. Essa moça é a tal da janela, que eu me cansei de cantar. E agora está só na dela, botando só pra quebrar. Mas o tempo vai, mas o tempo vem, ela me desfaz. Mas o que é que tem? Ela só me guarda despeito, que ela só me guarda desdém. Mas o tempo vai, mas o tempo vem, ela me desfaz. Mas o que é que tem? Se do lado esquerdo do peito, no fundo ela ainda me quer bem. Essa moça... anni 10. Suoni. On December 10th, 1936, I was sent to Haiti to make a field recording study of Haitian folk music. I returned to Washington in the latter part of April with 58 tenors. Allora, questa è una storia bella che vogliamo provare a raccontare per incuriosirvi su un approccio, possibile approccio diverso a un tema che invece è così, no, in questo momento attinto da tutti i media e consumato anche di lontano dal pubblico, dal mondo intero, ovvero Haiti, no, dopo il terribile terremoto, le cui conseguenze sono tuttora assai poco chiare riguardo al destino di questa isola, di questo pezzo di isola. La storia risale a molti anni fa ed è molto bella, e poi sbocca naturalmente in un prodotto che vi presentiamo oggi, che sicuramente incontrerà l'interesse di molti di voi. Il protagonista è un etnomusicologo, un ricercatore di musiche popolari, che si chiama Alan Lomax. È una leggenda assoluta per chi si interessa di musica popolare. In America è anche un maestro, un rispettato maestro sul tema, come Diego Carpitella o come Ernesto De Martino. Ebbene, Lomax fu prima di tutto molto precoce le sue ricerche musicali. Pensate che è nato nel 1915, ma già a 18-19 anni, sulle tracce del padre, a sua volta studioso di musica popolare, girava per l'America, soprattutto lavorava sulla musica del sud degli Stati Uniti, i discendenti degli schiavi, registrava con gli enormi registratori che si portavano dietro questi studiosi i suoni, non so, di Jerry Roll Morton, di Ledbetter, di Muddy Waters. Poi ebbe sull'onda, no, di un interesse che si era diffuso in quel periodo, appena prima della Seconda Guerra Mondiale, posò il proprio sguardo sui Caraibi e in particolare su Haiti, che era un luogo molto popolare, molto frequentato, soprattutto da alcuni personaggi di Hollywood, perché il voodoo era diventata una moda, e andare alle sorgenti, no, alle fonti del voodoo era diventata una cosa divertente, bizzarra, stravagante da fare per attori, registi e gente del mondo dello spettacolo. Lui sbarca a Port-au-Prince in modo completamente diverso, sbarca come sbarcano i ricercatori, portandosi dietro una cassa enorme con dentro apparecchiature di registrazione pesantissime e anche piuttosto complicate, delicate, esposte a una situazione di questo genere. Sbarca insieme alla sua ragazza, dalla quale non riesce a separarsi, anzi la sposerà, hanno tutte e due poco più di 20 anni, la sposerà proprio ad Haiti durante questo lungo soggiorno, che si prolungherà per 4 mesi, durante i quali scoprirà e registrerà con più di 1500 incisioni il suono di Haiti, che in quel momento il mondo letteralmente non conosceva, doveva conoscere, e lo farà anche grazie al lavoro svolto da Alan Lomax. Non sarà un compito facile quello messo in piedi da Lomax, si troverà a che fare con difficoltà di ogni genere, la malaria che lo prenderà quasi subito, i soldi che gli chiedevano i musicisti, hanno capito, è arrivato l'americano, no? Vuoi sentire le nostre canzoni? Dacci dei dollari, ma lui ne aveva pochissimi a disposizione, era una autoproduzione, anche se ante litteram. La qualità delle sue registrazioni, registrava su dischi di alluminio, il cui suono naturalmente era tutt'altro che fedele all'originale, ma lui girava per l'isola, andava alle feste, andava alle funzioni religiose, andava ai matrimoni, andava a casa dei più famosi musicisti dell'isola e registrava questo materiale, che adesso è un patrimonio straordinario che è diventato, dopo essere rimasto in giacenza per quasi 70 anni alla libreria del Congresso, no, dove tutta questa musica popolare è raccolta e catalogata, adesso diventa un formidabile cofanetto di 10 CD con tantissimo materiale dentro, che vi lascio soltanto immaginare nella qualità e anche nell'esperienza che si può provare nell'ascoltarlo. Tra l'altro è anche scaricabile via iTunes, e tutto ciò accompagnato da due libri molto belli: uno, il diario di lavoro del 1936-37, per l'appunto, di Lomax, Comax, che raccoglie le tracce di quei Marines che stavano appena andando. Gli americani, ricordate, dal 1915 per 20 anni occupano Haiti, perché Haiti è un punto di controllo sul canale di Panama. Quando se ne vanno via c'è una specie di senso di liberazione, si sparge nell'isola, c'è una riscoperta immediata della musica popolare e l'arrivo di questo studioso che prova a registrare, a tramandare tutto ciò. È un prodotto straordinario, si chiama Alan Lomax in Haiti, questo cofanetto costa parecchi soldi, potete assaggiarlo, ci sono registrazioni disponibili sulla rete, e un assaggio particolare da un artista che chissà chi mai sarà stato, si chiamava La Movinilière, pensate un po', un pezzo in dialetto naturalmente contaminato creolo, Bonsoir Papa Pai. Lo facciamo ascoltare noi. Questo era solo un assaggio di questo straordinario cofanetto per, come dire, avvicinarsi, per guardare Haiti, o per sentire, anzi meglio, Haiti con occhi e orecchi diversi, nel momento in cui naturalmente di tutto ciò sentiamo cronache ben più tragiche. Un cofanetto in 10 volumi chiamato Alan Lomax in Haiti, per testimoniare e raccogliere questo lavoro avvenuto, vi ripeto, più di 70 anni fa ad opera del più famoso ricercatore di musiche popolari nell'isola di Spagnola, no? come si chiama l'isola di cui fa parte anche Haiti. E restiamo a parlare di musicisti con una forte componente etnica, presentandovi un secondo personaggio del quale poi prestissimo, tra 4 mesi, quanto manca ormai pochissimo, imparerete, come dire, a fare conoscenza, no? Ad avere una frequentazione sicuramente minimo quotidiana, più volte al giorno, perché è suo l'inno ufficiale dei mondiali di calcio, lo canta, anzi lo rappa lui si chiama Kanan, è un rapper di origini somale, con però una vita trascorsa quasi interamente in Canada, a Toronto, dove si è trasferito al seguito della famiglia, e che è stato prescelto con peraltro un'interessante selezione in questi mondiali sudafricani, un artista invece nordafricano viene chiamato a occuparsi, anzi dell'India occidentale, dell'Africa occidentale, viene chiamato a occuparsi di quell'inno che dalle parti nostre, se ricordate, fu appaltato, no, a Gianna Nannini nelle magiche notti di Italia 90. Chi è questo Kanan? È un mix a tutti gli effetti, non solo perché porta nelle vene, no, sangue africano, ma educazione americana, ma anche perché poi nella sua musica confluiscono prodotti di ogni genere, reggae giamaicano, naturalmente naturalmente radici africane, ma anche consapevolezza hip hop, conosciuta, intrapresa, studiata, frequentata e creata al seguito di produttori di grande interesse in Canada e negli Stati Uniti. Ma prima, un po', prima di tutto ciò, insomma, lasciamo un po' sventolare queste bandiere, Waving the Flag, l'inno che Kanan canterà tutte le sere, tutti i pomeriggi, tutte le notti per i mondiali di calcio. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. And then it goes back, and then it goes back, and then it goes back. Oh, born to a throne, stronger than Rome, but violent prone, poor people's known. But it's my home, all I have known, where I got grown, streets we would roam. Out of the darkness, I came the farthest, among the hardest survivors. Learn from these streets, it can be bleak, accept no defeat, surrender, retreat. So we struggling, fighting to eat, and we wondering when we'll be free. So we patiently wait for that fateful day. It's not far away, but for now we say, when I get insomma, secondo me ci hanno visto lungo questi del comitato organizzatore dei mondiali di calcio, perché il pezzo, come secondo me avete già assaporato, funziona, vi si appiccica in testa e cominciate, no, a canticchiare questo Waving the Flag dalla mattina alla sera, ad opera di Kanan, questo personaggio che vi proponiamo quindi all'attenzione oggi. Somalo, come vi dicevo, somalo di origine e quindi anche interessato a prendere posizione ufficialmente, una serie di conferenze stampa, di comunicati, di interviste sulla famosa questione dei pirati somali. Kanan ha voluto dire la sua, ha voluto difendere le posizioni di questi giovani somali, le cui attività certamente, insomma, intinte, no, di crimine, sono però a più riprese state giustificate con una lettura in qualche modo politica, sociale, legata comunque alla difesa di una terra, delle coste della Somalia minacciate da vicino da tutta una serie di attività mai perfettamente chiarite, ad esempio lo scarico di rifiuti tossici, come poi tutto ciò si possa essere evoluto fino a diventare pirateria. Naturalmente è un dibattito complicato, su cui comunque Kanan, come vi dicevo, a più riprese è intervenuto dicendo: guardate che non è solo come lo dipingono, non è solo una versione moderna degli attacchi ai vascelli di qualche secolo fa, qui ci sono delle motivazioni che provate a trovare la voglia di indagare e di ricercare. Ascoltiamo ancora Kanan, questo non è l'inno ufficiale, ma è un altro dei suoi pezzi famosi per un personaggio destinato nel 2010 a diventare famoso. And any man who knows a thing knows he knows not a damn thing at all. And every time I felt the hurt and I felt the giving getting me up off the wall. I'm just gonna take a minute and let it ride. I'm just gonna take a minute and let it breeze. I'm just gonna take a minute and let it ride. I'm just gonna take a minute and let it breeze. How did Mandela get the will to surpass the everyday when injustice had him caged and trapped in every way? How did Gandhi ever withstand the hunger strikes and all? Didn't do it to gain power or money, if I recall, it's the gift. I guess I'll pass it on, mother thinks it'll lift the stress of Babylon. Mother knows, my mother, she suffered blows. I don't know how we survived such violent episodes. I was so worried, it hurt to see you bleed. But as soon as you came out the hospital, you gave me sweets, yeah. They tried to take you from me, but you still only gave them some prayers and sympathy. Dear mama, you helped me write this by showing me to give is priceless. And any man who knows a thing knows he knows not a damn thing at all. And every time I felt the hurt and I felt the giving getting me up off the wall. I'm just gonna take a minute and let it ride. I'm just gonna take a minute and let it breeze. I'm just gonna take a minute and let it ride. I'm just gonna take a minute and let it breeze. All I can say is the worst is over now. We can serve the hard times. It's over now, they try to keep us out, but they doors is open now. My nigga Akon is getting awards and covers now. This is K9 and still represents. scraped in the mess, and no matter how we strong, homie, it ain't easy coming out of where we from, homie. And it's the reason why I can never play for me. Tell them the truth is what my dead homies told me. Ooh yeah, I take inspiration from the most heinous of situations, creating medication out my own tribulations. Dear Africa, you helped me write this by showing me to give is priceless. And any man who knows a thing knows he knows not a damn thing at all. And every time I felt the hurt and I felt the giving getting me up off the wall, I'm just gonna take a minute and let it ride. I'm just gonna take a minute and let it breeze. I'm just gonna take a minute and let it ride. I'm just gonna take a minute and let it breathe. Nothing is perfect, man, that's what the world is. All I know is I'm enjoying today, you know, cause it ain't every day that you get to give. And any man who knows a thing knows he knows not a damn thing at all. And every time I felt the hurt and I felt the giving getting me up off the wall, I'm just gonna take a minute and let it ride. I'm just take a minute and let it breathe. I'm just gonna take a minute and let it ride. I'm just gonna take a minute and let it breathe. I ain't got nothing to complain about. You know where I'm from, you know where I'm at, so you know I'm flying high. Take a minute and let it ride. I'm just gonna take a minute and let it breathe. I'm just gonna take a minute and let it ride. I'm just gonna take a minute and let it breathe. Anni 10. Figure. I say we let the kid do the dishes, you and I retire to the master bedroom. Mom, do you think it's a puppy love thing with Jerry or is he someone that I can look forward to? E per i film che stanno facendo tendenza in America, che quindi ci interessa raccontare, segnalare, non tanto per farne la recensione, ma per vedere che cosa attrae, no, attrae gli indagatori di costume, quelli che vogliono sapere, quelli che vogliono andare oltre magari una semplice storia. Questo è il titolo del momento. Si chiama Youth in Revolt, già insomma molto, molto iconico come titolo, no? Gioventù in rivolta. Gioventù bruciata, insomma ne sappiamo parecchio di questo argomento. In sostanza una generazione a propria volta in cerca di una definizione, dei suoi relativi eroi, magari se non gli bastano gli eroi, non so, di Twilight o del grande mainstream. Qui c'è un romanzo di una quindicina anni fa che si chiamava appunto Youth in Revolt, The Journals of Nick Twisp, i diari di questo Nick Twisp, che resta in una versione cinematografica molto rimaneggiata il protagonista di questa storia, un sedicenne che si innamora di una bellissima fanciulla, un sedicenne un po' imbranato, una bellissima fanciulla invece assai sofisticata, che ha un, però a sua volta un fidanzato bello e anche un po' poeta, e allora il nostro Nick, il nostro eroe, si inventa un alter ego per scalzare il concorrente. L'alter ego si chiama François, esiste, si vede, cioè ci sono due Nick in scena. François c'ha i baffetti, un po' francese, e parla in modo sofisticato e fa cose del tutto sconsiderate. Il film va verso conclusioni piuttosto sorprendenti. Interessante però è il cast, perché qui ci sono gli eroi di cui tanti coetanei potrebbero essere alla ricerca, in particolare questo Michael Cera, che è il coprotagonista di Juno, no? Ve lo ricorderete, il papà del bambino che Juno porta nella pancia, quello che corre con i pantaloncini corti, così molto, molto, molto ascellari, che sta diventando a tutti gli effetti un simbolo generazionale credibile. C'è anche una attrice, una fanciulla di notevole fascino, che si chiama Portia Doubleday. Non ci credo che questo nome è reale, Portia Doubleday, comunque questo è scritto sui cartelloni. C'è una regia interessante, che è quella di Miguel Artieta, che era lo stesso regista che ha firmato The Good Life, un film che pochi hanno notato ma che se l'hanno visto hanno apprezzato, quello con Jennifer Aniston. E poi c'è una produzione che mette la firma a tutto ciò, dando peso alla questione, perché è quella dei fratelli Weinstein, e dove arrivano Bob e Harvey Weinstein, state pur certi che probabilmente ci sono quattrini, sicuramente c'è il fenomeno, e ancora più sicuramente c'è una particolare attenzione mediatica. Paul Newman is Butch Cassidy and the Sundance Kid is Robert Redford. Catherine Ross is Etta Place. Allora, questo era il trailer di un film che abbiamo amato veramente visceralmente con il cuore più profondo, no? I banditi biondi e buoni, Butch Cassidy and the Sundance Kid. In italiano si chiamava solo Butch Cassidy, The Sundance Kid era rimasto tagliato fuori dal titolo, e lui si è vendicato dando il suo nome d'arte, Sundance, no? Il personaggio di Robert Redford, al suo festival. Ha detto: ah sì, non mi mettete nei titoli, benissimo, io faccio un Sundance Festival. E così abbiamo imparato ad amare ed apprezzare questo festival di cinema indipendente, che va in scena poi in un posto molto chic, questa Park City, no? Le montagne dello Utah, dove a un certo punto hanno fatto anche delle Olimpiadi invernali. La notizia ve lo do perché andare al Sundance, andare a Park City, andare in Utah è cosa purtroppo a disposizione di pochissimi, per motivi strategici, di tempo, economici e quant'altro, ma adesso il Sundance si è molto molto molto svegliato dal punto di vista tecnologico, e siccome è già in corso, occhio, perché praticamente può essere seguito quasi interamente, potrete quasi avere l'impressione di essere parte, no, del Sundance, di essere lì a Park City con un computer, addirittura con un telefonino in grado di ricevere, di connettersi con internet con una buona velocità. Tantissimi eventi infatti vengono trasmessi in diretta addirittura su Ustream, uno dei servizi di live streaming disponibili in questo momento gratuitamente. Il Sundance manda in onda di tutto: le conferenze stampa, gli incontri, interviste con attori, registi, la cerimonia naturalmente di apertura, la cerimonia di chiusura, le premiazioni e lunghissime clip tratti dai film. Quindi veramente si può avere la sensazione di partecipare al Sundance e di dare un'occhiata in prima istanza a questi titoli che poi vivacizzeranno il mercato del cinema indipendente, in particolare questo Catfish, no? Il film più chiacchierato del momento, a doppia firma quella di Ariel Schulman e di Henry Joost. È la storia del fratello, la vera storia del fratello di uno dei due registi. Viene contattato, lui è un fotografo, viene contattato da una ragazzina di 8 anni che ha fatto un disegno tratto da una sua fotografia, lo contatta via Gmail, via chat. I due cominciano a chattare, il fotografo e la bambina. Lui va a conoscerla, conosce la madre, conosce la bellissima sorella e entra. È una storia molto molto particolare. Questo è Catfish, il titolo del momento al Sundance. Qui vi posso far sentire solo la musica, però vi posso dire il titolo, così voi siete bravi, se vi va andate a cercare su internet, e io vi garantisco 2, 3, 4, 5 minuti di assoluta delizia. Fatelo, perché se no vi perdete qualcosa. Questa è la storia di Misery Beer, che possiamo tradurre come l'orsetto sfigato, l'orsetto poveraccio, insomma, che è un personaggio che consiste in un orsetto di pezza, insomma, quelli un po' pelosetti, quelli che si comprano di solito all'aeroporto, in aereo, avete presente? Misery Beer è protagonista di una serie di struggenti storie della durata di 2 minuti ciascuna circa, che la BBC, niente meno che la televisione delle televisioni, sta proponendo sui suoi canali con un successo travolgente. Sono storie mute, c'è solo la musica che sentite qua sotto, e sono storie di miseria, di sfiga, appunto, del nostro orsacchiotto, che non è animato, viene mosso da sotto dalla mano del regista. Una roba fatta con un orsacchiotto e 5 sterline. Ma le storie sono bellissime. Misery Beer si ubriaca perché la fidanzata l'ha lasciata. Misery Beer ha la pessima idea di andare a fare una gita a Londra, salvo scoprire che le vetrine di Londra sono piene di orsacchiotti come lui, e gli piglia, vi garantisco, un colpo. Finisce che voi, come dei cretini, davanti, no, al monitor del vostro computer a guardare un orsacchiotto di pezza, succede che vi commuovete. Oh, molti, molto, molto anziani tra di voi invece si potranno commuovere alla notizia che se n'è andato l'ultimo dei Cartwright. I Cartwright erano la famiglia di Bonanza, di cui la sigla qua in sottofondo. Vi ricordate, Ben Cartwright era il padre, che aveva avuto tre mogli, tutte e tre sepolte, morte. Era vedovo di tre mogli e da ciascuna moglie aveva avuto un figlio, che erano appunto i Cartwright. Anche loro purtroppo sono passati a miglior vita e se n'è andato anche Pernell Roberts, che interpretava Adam, che era quello intelligente. Poi, tanto così per solleticarvi la memoria, vi ricordo che c'era Oz, che era quello che faceva sempre le stupidaggini, un po' il goffo, e c'era Little Joe, che era il ragazzaccio giovane e impetuoso. È un pezzo di storia della televisione americana che se ne va con Pernell Roberts, che tra l'altro ha fatto anche uno spin-off notevole di MASH intitolato Trapper John, la storia di Trapper John, ovvero di Elliot Gould, che lui aveva portato sullo schermo in una serie televisiva, anch'essa però poi durata non troppo. Tu sei a capo delle cheerleader della squadra di softball, giusto? Senti, io, ecco, non ho proprio voglia di giocare nella squadra. Vuoi fare la mascotte? No, non la mascotte, ma ho parole di incitamento da vendere. Alcuni avranno riconosciuto anche questo, siamo in pieno territorio, abbiamo trascinato in pieno territorio serial televisivi, dove ormai ciascuno può scegliere, no? dove coltivare i propri interessi. Qui siamo dalle parti di Ugly Betty. Vi ricordo che Ugly Betty è una serie televisiva americana, ma in realtà è, questa è la cosa divertente, una telenovela niente meno che colombiana. Si chiamava Io soy Betty la fea, io sono Betty la brutta, la bruttona. Poi è diventato un serial di grandissimo successo, anche un film e tante altre cose. È entrato veramente a tutti gli effetti nell'immaginario popolare, non solo americano, ha un grande successo anche in Italia. Però in America la ABC, che è la rete che produce Ugly Betty, ha deciso di farla finita qua, addirittura di togliere le ultime due delle 22 puntate previste per la quarta serie, saranno soltanto 20 e si fermerà qua. Fa sapere la ABC in un comunicato ufficiale che gli indici d'ascolto non sono soddisfacenti, anche se le critiche sono molto migliorate, c'è grande attenzione critica alla nuova serie di Ugly Betty. Si hanno scritto che insomma ha ritrovato il proprio splendore narrativo, la brillantezza, l'originalità nelle sue storie, ma si finirà qua in ogni caso. L'unica preoccupazione della ABC è mettere tutti gli sceneggiatori al lavoro per dare a Ugly Betty insomma un finale come si deve. Abbiamo finito parlando di serial televisivi, siamo partiti molto, molto più in là, parlando di libri sul potere americano, parlando del tropicalismo, parlando di steampunk. Io vi invito, per avere la lista completa dei prodotti che vi abbiamo presentato, i prodotti culturali, si chiamano così, il brutto nome è questo, che vi abbiamo presentato oggi, ad andare o sulla nostra pagina Facebook Anni 10 o ancora meglio sulla pagina fan, dove c'è il vero e proprio elenco, si chiama Anni 10, Radio 24, o sul sito di Radio 24, dove c'è la pagina del programma, e trovate tutte le indicazioni, i link, e poi presto troverete anche materiali ulteriori, vi diamo anche altre indicazioni e altri consigli. Io sono Stefano Pistolini, in regia c'è Alessandro Chiappini, in redazione ha lavorato Gloria Guerrera, e questo programma può essere riascoltato anche questo sul sito di Radio 24. Ci risentiamo ad Anni 10.